Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Brexit, le minacce di Johnson, Bielorussia, Lukashenko e i giorni contati. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. The UK says it will walk away from talks of the European Union if no new trade deal is reached by October the 15th. So this is the usual tactics of the authorities. They detain journalists, they interrupt journalists working. Quiet. I'm not going to give you a question. You are fake news. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Questo è Nessun Luogo è Lontano, il vostro quotidiano osservatorio su tutto ciò che accade al di fuori dei confini italiani. E con me, naturalmente, come ogni giorno, ci sono Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni e in regia Roberta Frisani. 349-238-6666, sms e whatsapp, domande e commenti. Lo potete fare naturalmente anche sui social, la pagina Facebook è Nessun Luogo è Lontano trattino Radio 24. Se amate Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Due le pagine che vi propongo in questa puntata in Nessun Luogo Lontano. La prima tutta dedicata al dossier Brexit, un dossier che si era raffreddato parecchio nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, complice anche l'attenzione per l'impatto della pandemia da coronavirus che ha colpito il Regno Unito, ma complici colloqui tra Regno Unito e delegazione dell'Unione Europea che sono in corso in questo momento, si sta scaldando nuovamente. Le parole di Johnson sembrano delle vere e proprie minacce. All'orizzonte, ancora una volta, una Brexit no deal, un hard border fra le sei contee dell'Irlanda del Nord e il resto della Repubblica d'Irlanda, insomma uno scenario che spaventa tanti e ha gettato nello sgomento anche l'ex premier Theresa May, di cui fra l'altro vi farò sentire anche la voce. Con quali conseguenze per il Regno Unito e soprattutto per l'Europa? E poi la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano, torniamo a Minsk, torniamo nella piazza bielorussa e lo faremo, ve lo anticipo, con una voce esclusiva, un collega, un giornalista di una TV indipendente bielorussa che ci darà tutti retroscena di 30 ormai giorni consecutivi di proteste e qualcuno inizia già a sussurrare che Putin potrebbe essere in procinto di consigliare a Lukashenko di fare un passettino indietro. Staremo a vedere. Naturalmente, come ogni giorno, la prima cosa da fare è andare a sfogliare i nostri dossier internazionali. E il primo ci porta ancora una volta in Libano, è un paese, un quadrante che vi raccontiamo spesso, qui a Nessun Luogo è Lontano. Perché? Perché come vi abbiamo raccontato nelle scorse puntate, quest'oggi, è arrivato poi ieri in realtà, il premier Conte si è recato appunto a Beirut. Un'ansa di pochissimi istanti fa recita testualmente, la leggo insieme a voi: abbiamo tenuto una conferenza con il presidente francese Macron e altri per migliorare le condizioni del Libano. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte rispondendo alla domanda di un giornalista libanese a margine della sua visita a Beirut. Durante questa visita ha anche incontrato il presidente libanese Michel Aoun. Ricordiamo che Conte è il secondo leader straniero che visita il Libano dopo l'esplosione del 4 agosto scorso. In questa gara di presenza internazionale, mettiamola così, e di gara agli aiuti anche per il popolo libanese, l'Italia è seconda soltanto alla Francia, perché Macron, lo sapete, ve ne avevo dato conto, ha fatto già due visite nel paese devastato, è utile ricordarlo, non soltanto da questa esplosione ma dalla crisi economica, dalla strisciante corruzione e l'impatto ancora una volta del coronavirus. Conte peraltro ha parlato, vi faccio sentire tra le altre cose che cosa ha detto. L'Italia ha profondo rispetto delle prerogative sovrane del popolo libanese, ma rimarrà al suo fianco auspicando che si possa formare al più presto un nuovo governo che si occupi della ricostruzione e di avviare un programma urgente di riforme per rispondere alle legittime richieste della popolazione e disegnare insieme il Libano di domani. Che nel linguaggio diplomatico e nelle sue apparenti morbidezze dice: attenzione, anche noi spingiamo per un governo che segni una cesura definitiva con un passato segnato, lo dicevo prima, veramente da corruzione, da quel settarismo, da quella divisione anche delle cariche pubbliche in omaggio alle diverse fedi, che da un lato ha garantito stabilità, dall'altro ha alimentato una serie di dinamiche perverse e benefiche che hanno gettato il Libano sostanzialmente in default. Forse i toni del Premier Conte sono, come dire, un po' meno muscolari, un po' meno arroganti di quelli del francese Emmanuel Macron, ma d'altra parte Emmanuel Macron porta anche sulle sue spalle, ogni volta che parla in un paese come il Libano, anche il passato coloniale. Questo evidentemente i libanesi lo sentono. Un altro quadrante nel quale la Farnesina, l'Italia, è particolarmente impegnata è quello libico. Non vi abbiamo dato più notizie dei 18 marinai tuttora sequestrati nelle mani del guardiacoste libico, la Libia quella della Cirenaica, quella di Salè, quella di Haftar. Perché? Perché fino adesso non ci sono state notizie, ma voi sapete perfettamente che la Farnesina in questi casi lavora sotto traccia, lavora nel silenzio ed è uno dei punti di forza. Meno si, come dire, si accendono i riflettori su alcune situazioni, meglio la diplomazia più parlare. È gioco forza però dare conto di quelle che sono invece due appelli che arrivano dagli armatori dei due pescherecci sequestrati, che dicono: aspettiamo ancora notizie della Farnesina, non sappiamo nulla, siamo in angoscia. Lo ricordiamo, sono 18 in tutti i marinai portati a Bengasi dai libici dopo il sequestro di due pescherecci che facevano capo alla marineria trapanese di Mazara del Vallo. Dei quattro pescherecci che inizialmente erano stati circondati dai guardacoste, due sono riusciti a fuggire, mentre altri due sono finiti nel porto di Bengasi. Rapporti Cina-Australia. Domani faremo sentire una intervista molto molto interessante, quindi già vi prenoto, per così dire, a Steve Tsang, che è il direttore del China Institute del SOAS di Londra. È uno dei più importanti centri di studio sulla Cina e nel mondo. Perché? Perché la posizione di Pechino si fa sempre sempre più indifendibile agli occhi dei giornalisti, agli occhi di quei colleghi che cercano di raccontare da dentro l'enorme e complesso paese. E in particolare si è arrivati ai ferri corti con chi? Beh, con l'Australia, lungo braccio di ferro, quello tra i due paesi. Due giornalisti australiani, il corrispondente della ABC Bill Birtles e il corrispondente dell'Australian Financial Review Michael Smith, hanno abbandonato con massima urgenza Pechino dopo un braccio di ferro diplomatico che è durato 5 giorni. Le testate dei due giornalisti hanno reso noto che i corrispondenti non si sentivano più al sicuro nella capitale cinese, temevano di essere arrestati dalla polizia. I due giornalisti sono stati sottoposti a crescenti pressioni da parte delle forze dell'ordine, con irruzioni, pensate, interrogatori a sorpresa. La polizia cinese, secondo il racconto, ha interrogato in due in merito ai loro rapporti con Cheng Lei, la giornalista australiana, lo ricorderete, ne davamo notizia, di origine cinese, trattenuta e sottoposta a fermo in una località riservata. Questo avveniva alcune settimane fa. Ha parlato il ministro degli esteri cinesi dicendo che l'arresto di Cheng Lei, la collega, è una questione di sicurezza nazionale. E come i racconti del nostro Antonio Taglia ormai ci hanno abituati, sono quelle formule estremamente vaghe che il regime di Pechino utilizza e all'interno delle quali ogni mossa è quasi possibile. L'Australia è in prima fila, è utile ricordarlo, per dare un contorno anche a questo strano braccio di ferro tra i media australiani e il regime di Pechino. L'Australia è in prima fila nel chiedere una inchiesta internazionale nei ritardi nel contrasto all'epidemia di Covid-19 che sono imputabili proprio a Pechino, e secondo alcuni analisti questa sarebbe una ritorsione. Peraltro è utile ricordare che a questo punto in Australia non si saprà più niente della Cina, perché non c'è più nessun reporter australiano presente in territorio cinese. Poi cambiamo pagina velocemente. Russia-Germania, caso Navalny. Ci aspettiamo che Berlino fornisca tutte le informazioni disponibili, sia i risultati dei test di laboratorio della Bundeswehr, sia alcune prove che il ministro degli esteri tedesco ha. Lo ha detto Maria Zakharova, portavoce del ministero degli esteri russo. Aspettiamo l'ambasciatore tedesco al ministero degli esteri. È il momento di mostrare le carte. È ovvio a tutti che Berlino sta bluffando ed è impegnata in qualche pastrocchio politico, lo ha detto. Ed le sue dichiarazioni sono state riprese e diffuse dall'agenzia Interfax. E poi cambiamo ancora quadrante, sempre però parlando di Cina, stavolta al confine con l'India, confine malaiano, le vette altissime, il Ladakh, quella che ha visto alcune settimane fa una mattanza incredibile, roba da prima guerra mondiale, con uccisioni a botte, a mani nude, a clave, a mazze ferrate. Continuano a salire proprio su quel confine le tensioni tra Pechino e Delhi. Nei giorni scorsi vi davamo conto di accuse e controaccuse reciproche. Sostanzialmente Pechino starebbe mangiando posizioni. L'India ha spesso negli ultimi giorni denunciato queste provocazioni. Quest'oggi, poche ore fa, la Cina invece accusa l'India di grave provocazione militare, ma il governo di Delhi nega che i suoi soldati abbiano attraversato quella che è stata definita la line of actual control, che delimita sostanzialmente de facto quello che è il confine tra le due superpotenze, aprendo il fuoco, si legge, per minacciare gli agenti di pattuglia in difesa invece del confine cinese. La paura qual è? Beh, che questi continui incidenti che vengono rimproverati da una parte all'altra portino nuovamente a un'escalation e magari, naturalmente ci auguriamo il contrario, non soltanto a mani nude e a bastoni e a clave, ma con arsenali e armamenti di ben altro rango, il che porterebbe a conseguenze assolutamente imprevedibili. Poi c'è sempre il capitolo Grecia-Turchia, ce ne occuperemo nelle prossime puntate di Nessun Luogo è Lontano. I media greci hanno dato notizia ieri del potenziamento delle forze armate di Atene tramite l'acquisto di caccia da combattimento Rafale e almeno una fregata francese. Il primo ministro greco Mitsotakis annuncerà i dettagli del piano di rafforzamento militare durante il suo discorso annuale sullo stato dell'economia, che è previsto per sabato, ma nel frattempo ha lasciato trapelare un po' di dichiarazioni che evidentemente nel suo intento vogliono in qualche modo lanciare dei messaggi molto chiari alla controparte a Ankara. La scorsa settimana la Grecia ha raccolto 2 miliardi e mezzo di euro in un'asta di obbligazioni, mentre il paese sta cercando di aumentare la spesa militare e raccogliere fondi allo stesso tempo anche per le imprese che sono state colpite dal coronavirus. E capiamo bene che è una situazione particolarmente sensibile, delicata per Atene, che è impegnata su due fronti, quello interno, quello economico e della pandemia, allo stesso tempo i suoi interessi economici che vengono minacciati nel Mediterraneo dalla muscolarità, dalla presenza, dall'onnipresenza di Ankara. Questo è il nostro ricco termometro internazionale. Adesso con Roberta Frisani andiamo a Londra. So I have one message that I want to land with you today, Leo, and that is that I want to find a deal. I want to get a deal. Voglio trovare un accordo, così parlava Boris Johnson un anno fa, ma sembra che il primo ministro, ve lo dicevo nei titoli, abbia cambiato idea, forse anche per via delle pressioni subite dal partito pro-Brexit, dal suo leader Nigel Farage, che vi faccio sentire immediatamente. Well, he clearly doesn't want Brexit. Chiaramente non vuole la Brexit, non vuole una vera Brexit. Mi spiego meglio, abbiamo anche sentito dire che i conservatori potrebbero non avere nel loro programma l'impegno di lasciare l'Unione Europea ad un certo momento, senza un accordo netto. Mi sembra che Boris stia cercando di riunire il partito dei Tory senza invece dare abbastanza importanza ad una vera e genuina Brexit. E questo è un vero peccato. Così Farage. D'altra parte, o meglio dall'altra parte, si è fatta sentire anche Theresa May in Parlamento, ha sottolineato un punto in particolare. Qua è in gioco non soltanto quello che è il futuro delle relazioni economico-commerciali tra la Gran Bretagna e l'Unione Europea, ma anche la stessa credibilità politica del Regno Unito. Poi entreremo nello specifico di quanto Boris Johnson e come abbia gestito gli ultimi mesi. Sentite Theresa May intanto. Questo Parlamento ha votato l'accordo di separazione e lo ha inserito nella legislazione del Regno Unito. Il governo sta ora modificando il funzionamento di tale accordo. Detto questo, come può il governo assicurare ai futuri partner internazionali che il Regno Unito rispetterà gli obblighi legali degli accordi che stipula? Una lettura di ciò che sta accadendo ce l'offre un bel pezzo sull'online del Sole 24 Ore, che recito quasi testualmente. Boris Johnson ha tanti problemi al momento, non ha gestito bene l'ondata pandemica e lo sa. L'economia britannica va male, si fa debito come non si è mai fatto, i contagi sono ripresi, anche se siamo lontani dai numeri terribili della primavera. In più, aggiunge il pezzo sul Sole, girano voci che il Premier si voglia dimettere per questo disastro improbabile e che i britannici non vogliono più uscire dall'Unione Europea come una volta possibile, sostengono alcuni sondaggi. E allora Boris Johnson cosa fa? Si risiede al tavolo dei negoziati per Brexit, che sono ripartiti ieri, adesso quest'oggi entrano nella fase forse più delicata, e lancia l'ultimatum il 15 ottobre per trovare un'intesa, altrimenti ce ne andremo e faremo di testa nostra. Che cosa può accadere al di là degli aspetti strettamente economico-commerciali, di questa frattura, di tutti i problemi che anche tante aziende potranno trovare nel cercare di fare affari con il Regno Unito? C'è tutto un aspetto politico interessantissimo. Lo analizziamo e mettiamo il grand'angolo grazie alla voce e alla presenza del professor Paolo Dardanelli, insegna alla Scuola di Politica e Relazioni Internazionali, Università di Kent. Professor Dardanelli, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, buongiorno. Grazie della sua presenza. Lei in qualche modo è il segnale di quanto il dossier Brexit si torni a scaldare. Quando ai noi la chiamiamo c'è sempre qualche problema che attiene, come dire, alla politica britannica. Dicevo prima, professore, il dossier Brexit è tutto economico e commerciale, ma avrà sicuramente amplissimi risvolti politici. Io partirei, se lei è d'accordo, dallo stato di salute, ovviamente politica, senza fare facili ironie, di Boris Johnson. La minaccia del no deal sembra un modo per, come dire, parlare alla pancia, accendere gli animi, sviare un po' l'attenzione, innalzare il livello dello scontro. È d'accordo oppure c'è un'altra spiegazione secondo lei? Ma sì, è possibile, nel senso che da un lato c'è un, diciamo, una linea di fondo, nel senso che c'è una sezione consistente del Partito Conservatore che è chiaramente molto molto ferma su posizioni di Brexit anche dura e quindi vuole continuare su quella linea. Diciamo che in aggiunta a quella linea di fondo ci sono appunto queste dinamiche di cui lei parlava che è probabile che siano anche in gioco. Chiaramente la posizione di Boris Johnson al momento non è buona, ha mal gestito la situazione della Covid e l'economia chiaramente ha sofferto parecchio e via dicendo. Quindi, diciamo, nei sondaggi il Partito Conservatore è andato molto giù, aveva un margine di vantaggio sui laburisti enorme. Sì. Dopo l'elezione l'anno scorso, questo margine adesso, secondo gli ultimi sondaggi, è stato completamente colmato. Quindi diciamo che la situazione è difficile, anche perché il Partito Laburista adesso ha un leader che è molto più credibile come alternativa a Johnson. E in qualche modo l'aspetto di politica interna, professor Dardanelli, sembra preponderante. Lo è anche nelle parole di un interessante WhatsApp che arriva da un ascoltatore. Johnson sacrifica gli obiettivi strategici del paese per tattica politica interna e aggiunge: sta servendo un assist a scozzesi e nordirlandesi per chiedere l'indipendenza, così chiede un ascoltatore. E al di là dell'amara considerazione che molto spesso la politica internazionale, la politica anche interna dei paesi si sacrifica, no? Immola interessi e lungimiranza nel nome della bagarre interna, ma detto ciò è una considerazione mia personalissima. Un Regno Unito fuori dall'Europa rafforza o indebolisce la posizione sia del Regno Unito che di Boris Johnson? Professor Dardanelli. Ma allora dipende un po' appunto come i termini del divorzio, diciamo, poi si materializzano. Se ci fosse un divorzio tutto sommato che Boris Johnson può vendere come vantaggioso per i propri interessi, quello chiaramente andrebbe a suo vantaggio. Se ci fosse invece un divorzio, diciamo, disordinato, con un impatto economico molto forte, chiaramente, insomma, la situazione sarebbe diversa. Allora, il discorso è che il Regno Unito è chiaramente molto diviso, nel senso che ci sono posizioni diverse su quali sono gli interessi del paese. Quindi c'è, come dicevo prima, c'è una grande parte del Partito Conservatore che adesso si è ricompattato, diciamo, su posizioni euroscettiche, che è convinto che gli interessi del paese siano serviti da una cesura la più netta possibile con l'Unione Europea. E invece chiaramente c'è poi tutta un'opinione, diciamo, laburista, liberale, ma anche, diciamo, centrista, che chiaramente vede questo con una percezione molto negativa. Quindi c'è questa divisione che si è, diciamo chiaramente creata nel 2016 che non è stata superata e non verrà superata, diciamo, almeno fino a quando ci sarà un accordo che chiarisca un po' qual è quale sarà la nuova relazione fra i due partner. Certo, e probabilmente segnerà anche la politica britannica negli anni a venire, una politica britannica che è stata monopolizzata dal dossier Brexit nel suo complesso, ma poi da alcuni sottotemi specifici molto molto importanti, tra cui il confine tra le sei contee dell'Irlanda del Nord e l'Irlanda, e ci andremo tra pochissimo con una collega che ben conosce la situazione delle sei contee. Quanto se ne parla nel Regno Unito dell'Ulster, professor Dardanelli? È un tema o, come dire, quelle sei contee rimangono un frammento del Regno Unito sempre un po' in disparte, sempre un po' una periferia rispetto a Londra? Sì, sicuramente lo sono, chiaramente adesso per via di questa Brexit sono chiaramente sempre, diciamo, un po' nell'occhio del ciclone, però diciamo nel momento in cui il dossier Brexit passa, diciamo, in secondo piano, poi l'Irlanda del Nord tenta ad essere un po' dimenticata, certo. Quindi diventa solo, diciamo, d'attualità quando la questione nordirlandese ha un impatto, diciamo, più vasto, sennò sì, tende ad essere un pochino dimenticata. Ecco, e poi invece i consumatori britannici se ne accorgeranno, come se non vi sarà un accordo, perché il confine che corre tra la Repubblica d'Irlanda e le sei contee rischia di essere doganalizzato, scusate questo neologismo orribile coniato adesso, proprio perché quel confine lì rischia a un certo punto di, come dire, sintetizzare al massimo questa strana uscita senza appunto gli accordi commerciali. Trump metterà lo zampino pro Brexit, si chiede un ascoltatore, oppure è troppo impegnato nella campagna elettorale? Credo che due parole di moral suasion non mancheranno in favore dell'hard Brexit, così dice un ascoltatore. Le giro immediatamente la sollecitazione, professor Dardanelli, per chiudere il suo contributo, del quale ovviamente la ringrazio. Si aspetta una parola molto chiara, molto netta di Trump nelle prossime ore, nei prossimi giorni? Ma è possibile, direi non ci scommetterei necessariamente, mi sembra che Trump al momento sia molto occupato con altre questioni, anche lui, diciamo, non è in una posizione molto solida. È possibile che voglia, diciamo, intervenire, diciamo che da un punto di vista britannico le dichiarazioni di Trump non hanno mai avuto, diciamo, un grande peso in una direzione o nell'altra, ma è possibile, non lo escluderei. E vedremo soltanto la sfera di cristallo, o meglio, le prossime ore vedremo se ci daranno ragione. Intanto ringrazio il professor Paolo Dardanelli, insegna alla Scuola di Politica e Relazioni Internazionali all'Università del Kent. Professore, grazie mille, buona giornata e buon lavoro. Grazie a lei. Tra pochissimo, come promesso, con la voce di Francesca Lozito, giornalista freelance, autrice della newsletter Zuppa Irlandese, vi parleremo di qualcosa di ben più goloso dal punto di vista giornalistico, è ben inteso, perché, come vi abbiamo spesso raccontato, quel confine particolarmente delicato potrebbe riaccendersi, non tanto forse dal punto di vista della minaccia terroristica, ormai i gruppi repubblicani, quelli militanti, quelli con le armi, sono sostanzialmente quattro gatti, perdonate l'espressione forse un po' troppo prosaica, ma quell'indurimento sul confine, la presenza di dogane e non più quell'osmosi anche commerciale che adesso è vigente, potrebbe sicuramente riaccendere gli animi. Ve li racconto, ve li farò raccontare subito dopo l'informazione finanziaria. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. In questa lunga prima pagina di Nessun Luogo Lontano vi raccontiamo quello che secondo alcuni sta diventando un po' ricatto, quello di Boris Johnson. Sono in corso in queste ore a Londra i negoziati per l'uscita con accordo del Regno Unito rispetto all'Unione Europea. Su tutti abbiamo sentito i risvolti più prettamente politici, con il privilegiato punto di vista, la voce del professor Paolo Dardanelli dell'Università del Kent. Uno dei dossier più caldi forse riguarda proprio quel confine che separa le sei contee dell'Irlanda del Nord dalla Repubblica d'Irlanda. Per quanto in queste ore, in maniera molto veloce, anzi mercoledì in Parlamento dovrebbe essere presentato un progetto di legge nazionale Internal Market Bill, che secondo il governo britannico dovrebbe chiarire i limiti agli impegni presi nell'accordo di divorzio, il tutto per preservare l'apertura della frontiera fra Belfast e Dublino. Il tutto risale, è utile ricordarlo, agli accordi del 98, quelli del Venerdì Santo, che hanno messo fine a quella lunga guerra civile, ai Troubles. Francesca Lozito quei temi li conosce molto bene. Buongiorno e ben ritrovata, Francesca. Ben ritrovato Giampaolo, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, naturalmente virtualmente ti chiedo che aria tira nelle sei contee dell'Irlanda del Nord, mentre, come dire, sembra che il governo britannico stia un po' arrancando su questa Brexit con deal. Che conseguenze ci potrebbero essere? Ma allora, la nota più interessante è la reazione del DUP, degli unionisti, della loro leader, che in questo momento svolge funzione di primo ministro al Parlamento di Stormont, Arlene Foster, la quale ha commentato le dichiarazioni del suo livello di Stato del Nord Irlanda, che dicono in buona sostanza che si potrebbero rompere le leggi internazionali, cioè il nuovo accordo potrebbe andare oltre quelle leggi internazionali, sì, che, come giustamente tu dicevi appunto riguardo l'accordo del Venerdì Santo, ma possiamo anche aggiungere l'accordo tra Johnson e l'allora primo ministro Leo Varadkar, Taoiseach, sì, della Repubblica d'Irlanda nello scorso autunno, che garantivano appunto un confine all'interno dell'Irish Sea con una garanzia del mare, insomma, irlandese, che separa i due territori, le due isole, e che, come dire, garantiva anche un legame forte, importante, non solo proprio per gli accordi di pace, ma anche per un'attività economica per il Nord Irlanda. Cioè la Foster in buona sostanza ha detto sì, noi, no, lei tiene sempre questa posizione di mezzo rispetto al governo britannico, però dice il Northern Irish Protocol di fatto, sì, il protocollo nord irlandese è legge, quindi occhio da, certo, questo punto di vista, no? Questa, certo, secondo me è la reazione più interessante. Poi c'è tutta la partita della Repubblica d'Irlanda, mm-hmm, perché ieri ci sono stati questi dati molto preoccupanti su una recessione che in un paese che continuava a crescere prima della, sì, pandemia. Sì. Forse pesano di più dell'Italia, Giampaolo, io azzardo. Sì. Azzardo. Sì. Le parole, la voce di Francesca Lozito, giornalista freelance, autrice delle newsletter Zuppa Irlandese, che, come dire, già vi dà, come dire, la misura di quanto Francesca sia appassionata, interessata e osservi in maniera molto attenta ciò che accade non soltanto nella Repubblica d'Irlanda ma anche nelle sei contee, un po' il focus di questa seconda pagina di Nessun Luogo è Lontano. Spesso ne abbiamo parlato proprio qui con te, Francesca Lozito, quanto quella minaccia terroristica ormai molto affievolita, parecchio affievolita, potrebbe invece, in caso di innalzamento dei confini ancora una volta, riemergere prepotentemente. Credi che ci sia questo rischio? È una speculazione tutta giornalistica, per cui rigettala al mittente tranquillamente. Ma guarda, l'altro giorno c'è stata questa grossa retata della PSNI, ovvero della polizia, del servizio di polizia di Nord Irlanda, quello creato dopo gli accordi di pace, sì, sai, nelle sedi, in più sedi, sono andati anche ad Armadi, Saurà, che è un po' il braccio politico della New Era. Tra l'altro quest'estate c'è stato anche l'identificazione del killer di Liran McKee, la giornalista, sì, che, lo ricordiamo, alla fine del 2019 è stata uccisa accidentalmente o meno, questo sarà poi il giudice, sarà il processo a stabilirlo, però di fatto chi ha premuto il grilletto è stato identificato in un modo un po' rocambolesco, hanno trovato la pistola, no? Quindi tutto questo, hanno trovato DNA ovviamente di questa, certo, persona, tutto questo ci fa capire che comunque un'attenzione, però saremmo, come dire, poco precisi se non inserissimo tutto questo, sia lo scenario politico che lo scenario dei gruppuscoli, sì, di irriducibili, in un contesto post-Covid, dove il Covid sia in Nord Irlanda che in Repubblica d'Irlanda ha rappresentato, la Repubblica d'Irlanda ha fatto il lockdown più lungo di tutta Europa, i pub riaprono la prossima settimana, sì, Nord Irlanda, come dire, come la Scozia, così anche il Nord Irlanda ha tenuto delle regole più rigide rispetto al resto di UK, e probabilmente questo li ha anche salvati da questi lockdown estemporanei che ci sono stati, sì, invece ad esempio a Coventry, Birmingham, sì, e adesso a Glasgow, salvata parzialmente la Scozia, però insomma però Francesca, se capisco bene, è quasi come se questo lockdown potrebbe innescare, intanto vabbè, un detonatore di depressione economica, su questo non c'è dubbio, senza tema di smentita, allo stesso tempo ricordando anche le mie trasferte, sto pensando a alcuni quartieri di Belfast, a New Lodge, quelli economicamente molto depressi, con questi ragazzini per strada, uno stipendio per famiglia, in 7, in 8 per famiglia che magari aspettano il sussidio, ecco, forse il lockdown potrebbe aver alimentato anche una certa esasperazione sociale, e lì attenzione, perché quelle frange repubblicane, ma anche dall'altra parte gli unionisti, sono molto attenti, no, nell'intercettare il minimo malumore per poi trasformarlo in militanza attiva. Non so se interpreto bene quello che pensavi, ecco, che dicevi. Sai che il rischio più grosso è invece, secondo me, sul confine, nel senso che potrebbe, adesso non abbiamo la sfera digitale, certo, e anche grazie al cielo, no? Magari appunto veniamo smentiti, però il cuore, non vorrei che la Brexit alla fine, perché sai, Nord Irlanda, la disoccupazione la viveva prima, la vive durante, la vive, sì, dopo. Sì. L'avvocato di Ira McKee, in una delle dirette che ho fatto con Zuperlandese, mi ha raccontato che di fatto, no, il meccanismo di solidarietà, la food bank, la solidarietà nei confronti delle persone che comunque avevano dei parenti ricoverati per Covid, sì, era scattata. Io sono più preoccupata nei rapporti tra le due parti dell'isola, cioè non vorrei mai che le azioni di protesta si svolgessero dall'altra parte del confine, cioè magari adesso veramente stiamo facendo, sì, fantapolizia, sì, però non vorrei che mai che le azioni si svolgessero nei confronti della Repubblica, proprio imputandogli, no, tutta quella crescita, il fatto che ci sono le big company, tutto, certo, quello che insomma sappiamo. Certo. Poi sai che oggi questa cosa è, come dire, è accaduta nel momento in cui il commissario europeo, quello dimissionario, Phil Hogan, la scorsa settimana, quello che aveva violato qualsiasi quarantena, sì, al ritorno da Bruxelles, è, sì, stato sostituito da Dombrovskis, e Miriam McGuinness è entrata nella squadra appunto della commissione. Miriam McGuinness è colei che presiedeva l'assemblea nel momento in cui ci fu la famosa ultima seduta con la Gran Bretagna. È simbolica questa cosa qui, no? È una giornata particolare, sicuramente è una giornata particolare. Non c'è dubbio, vedremo che cosa usciranno da questi colloqui. D'altra parte, come ricordava Francesca Lozito, quel confine è importante dal punto di vista economico e commerciale, ma i risvolti si potrebbero amplificare in maniera diversissima sull'ambito politico, su quello della pura cronaca. Naturalmente speriamo di non essere qui a raccontare invece qualche atto appunto di violenza che ci farebbe ripiombare con la memoria a qualche anno fa. Io ringrazio tantissimo Francesca Lozito, è una giornalista freelance, collega che ben conosce la Repubblica d'Irlanda e le Sei Contee. Vi ricordo la sua newsletter Zuppa Irlandese, se volete gustarvi un po' di notizie fresche appunto che arrivano da quei luoghi. Grazie mille Francesca per essere stata con noi. Buona giornata e buon lavoro. Questa era la seconda pagina di Nessun Luogo è Lontano. Abbiamo provato a indagare, a sfregare la sfera di cristallo. Scherzavamo un po' con Francesca Lozito su quello che potrebbe accadere. Vedremo come vanno questi colloqui. Tra pochissimo, subito dopo la viabilità, vi porterò ancora una volta in quella piazza, quella di Minsk, che da 30 giorni è sugli scudi. Nessun luogo è lontano. Questa è la terza pagina di Nessun Luogo è Lontano. Torniamo in quella piazza infuocata per i toni politici, non certo perché i manifestanti si sono prodotti in atti particolarmente violenti, cosa che invece non hanno fatto le forze di sicurezza bielorusse, peraltro che lavorano, come dire, in punta di piedi, perché da notizia l'ANSA e Interfax, ANSA rilancia una notizia di Interfax, è scomparsa un'altra dissidente, si sono persi i contatti con Antonina Konovalova, lo riferisce lo staff della Tikhanovskaya, la principale candidata dell'opposizione alle presidenziali dello scorso 9 agosto. Al momento non si sa dove sia la donna, e quindi questo è un altro tassello particolarmente preoccupante che mi fa rispondere, lo spero, in maniera esaustiva quello che è un interessante messaggio di un ascoltatore. Lukashenko non ha i giorni contati, l'ascoltatore cita i nostri titoli iniziali, non finché sarà protetto dal suo esercito, dall'intelligence, del suo cerchio di sicurezza più stretto, non ha i giorni contati finché Putin lo protegge. Se Putin consiglierà a Lukashenko di lasciare, attenzione perché in alcuni ambienti giornalistici già si vocifera, si mormora che potrebbe essere una possibilità, significa che Putin installerà al suo posto un fantoccio telecomandato da Mosca oppure sceglierà di invadere la Bielorussia come fece con la Crimea. Proprio di questo parlavamo ieri con Gigi Donelli, caporedattore di Radio 24, il quale in realtà tracciava un bel confine tra la situazione bielorussa e quella Crimea. Ma chi meglio della Crimea, dell'Ucraina anzi, scusate, chi meglio di un collega che lì in quelle piazze e le racconta può cercare di fugare i dubbi e rispondere alle nostre domande. Zmicer Michievich è stato raggiunto da Andrea Macchioni, è giornalista per Belsat, prima TV indipendente in Bielorussia. Con la loro televisione stanno seguendo e documentando le proteste di ormai da 30 giorni. Che aria si respira per le strade di Minsk? Sentite. Al momento le persone sono davvero arrabbiate, sono arrabbiate per come le autorità si stanno comportando. Autorità che sono considerate oramai fallimentari e prive di credibilità, dopo i diversi tentativi di minacce che hanno messo in campo e il continuo tentativo di diffondere paura tra la popolazione. Il punto è che questa è l'unica tattica che le autorità possono usare in questo momento. Intimidazioni e repressione contro i manifestanti e contro tutte le persone con un'opinione diversa da quella propinata dallo Stato. Le persone però non hanno più paura e hanno fiducia nella vittoria, sono convinti che tutto andrà bene, ma sono privi di qualsiasi piano nel medio-lungo periodo. Non hanno ancora pensato a come arrivare alla vittoria. Però credono davvero in quello che stanno facendo e sono pronti a continuare questa protesta pacifica. L'opinione delle persone con cui ho parlato è che il regime di Lukashenko stia per crollare e che le intimidazioni messe in campo dal governo non funzionano più. Pensano anche che le autorità stiano cercando di provocare i manifestanti con l'intento di creare un'altra ondata di repressioni e di risolvere così una situazione che sta diventando ingestibile per loro. They really believe in what they do, they really believe in peaceful protest, and I would say that this is the main position of the protesters. La voce, il racconto di Zmicer Michievich da Minsk, l'ha raggiunto Andrea Macchioni, un report di Belsat, una prima TV indipendente bielorussa che certamente non se l'è passata bene nelle ultime settimane, data il pugno di ferro, la repressione molto forte del regime di Lukashenko. Avete mai subito censure da parte del governo? Questo ha chiesto Andrea Macchioni al collega e sentite la sua risposta. Al momento i media indipendenti sono repressi e le persone vengono arrestate con l'accusa di aver preso parte a manifestazioni illegali. In Bielorussia esistono capi d'accusa come manifestazione illegale e anche giornalismo senza accreditamento. Si tratta principalmente di due articoli amministrativi a cui sono soggetti i media indipendenti. Personalmente sono stato arrestato 3 volte durante questa campagna elettorale per aver condotto interviste ed essere andato a documentare le proteste in diretta. Questa è la tattica usuale delle autorità. Incarcerano i giornalisti, interrompono il lavoro dei cronisti sul campo, cercano di fare di tutto perché le informazioni non escano dai confini della Bielorussia, per non dare la possibilità agli stranieri di capire cosa stia succedendo realmente in Bielorussia. Le autorità stanno cercando di bloccare le informazioni. Hanno anche bloccato 75 siti web di media indipendenti. Quindi al momento non è quasi possibile accedere ai media indipendenti della Bielorussia. Questo ha spinto molte persone a installare VPN per aggirare la censura. Tanto che al momento la Bielorussia è la seconda nazione più grande che installa questo sistema sui propri dispositivi. Il primo è l'Iran. Le persone installano i sistemi di VPN per leggere siti web indipendenti. Questa situazione ha anche provocato una grande attività di Telegram, che è diventato il modo principale con cui le persone ottengono informazioni. In Bielorussia il canale di notizie Telegram ha più di 2 milioni di abbonati. Tenendo conto che la popolazione del paese è di 9 milioni e mezzo, stiamo parlando davvero di grandi numeri. Si può quindi dire che le autorità hanno fallito anche nell'implementare il tanto desiderato isolamento dai canali informativi in Bielorussia. So this is really a big number. So we can say that the authorities also failed to provide this information isolation in Belarus. Ancora la voce di Zmicher Mikievich, giornalista per Belsat, raggiunto pochi minuti fa da Andrea Macchioni. La sua voce arrivava da Minsk. Anche le sue vicissitudini personali e professionali nel raccontare questa crisi in Bielorussia, che promette, secondo le sue parole, di far vacillare, se non far cadere a brevissimo, l'ultimo dittatore europeo, così è stato bollato Lukashenko. Interessante il dato di Telegram: 2 milioni di abbonati su 9 milioni e mezzo di persone, il che la dice lunga anche sulla fame di informazioni e di interrelazione che la società civile sta cercando di creare in questo momento in Bielorussia. Un ascoltatore, Lukashenko, scrive: Lukashenko è sempre rimasto ai tempi della guerra fredda precaduta del muro di Berlino, ossia utilizza gli stessi metodi del KGB a quando gli avvelenamenti agli oppositori. Non li sta avvelenando, ma li sta facendo sparire, evidentemente. Sentite cosa dice Mikievich sul presunto rapimento della Kolesnikova. Qual è il suo punto di vista sulla questione? Ve lo faccio dire da lui. I think that definitely the fall of Lukashenko regime is just a question of time. Sì, penso che la caduta del regime di Lukashenko sia solo una questione di tempo. In inverno ci troveremo ad affrontare gravi problemi economici e quello sarà il colpo fatale. L'unico compito di Lukashenko è mantenere il potere, quindi gli verranno fornite tutte le risorse per il suo apparato repressivo, con l'unico fine di rimanere in controllo della Bielorussia. Più che una seconda Ucraina, credo che la Bielorussia rischia di diventare un secondo Venezuela nel cuore dell'Europa, il che scontenterebbe tanti. Quindi è davvero una domanda difficile a cui rispondere. Non credo che lo scenario ucraino possa accadere in Bielorussia, perché i due paesi sono profondamente diversi. Noi bielorussi siamo uno Stato unitario senza divisioni rispetto a questioni nazionali. Abbiamo una cultura monolitica e unitaria e non c'è quindi spazio per una divisione della nazione o per un intervento straniero. Allo stesso tempo si nota come ora la società bielorussa stia diventando sempre più europeista, grazie anche alla mentalità europea propria del popolo bielorusso. Siamo diversi dagli ucraini nel modo di pensare. Nella società bielorussa c'è come primo concetto l'idea di legge, come nel resto d'Europa. Se si guardano le immagini delle proteste, si nota che dopo la manifestazione non c'è spazzatura, perché le persone non buttano per terra i rifiuti, e anche se ovviamente c'è qualcuno che lo fa, ci sono volontari che raccolgono tutto e puliscono. I bielorussi stanno protestando in modo pacifico e pulito. Questo mostra l'intenzione stessa di questa protesta e mostra bene il carattere della nazione bielorussa. Quindi non penso che lo scenario ucraino possa accadere anche qui, anche perché nella sua maggioranza la popolazione bielorussa non sostiene la Russia, perché Putin sostiene Lukashenko al momento. Sostenere Lukashenko è davvero un grande errore. Per l'immagine della Russia, al momento la stragrande maggioranza dei bielorussi non sta con Lukashenko. Le posizioni della Russia ci danno davvero la possibilità di vedere la Bielorussia come uno Stato europeo, anche perché i bielorussi sono davvero europei nella loro mentalità. Quindi, dal mio punto di vista, nel caso di cambio di regime, i bielorussi si organizzeranno abbastanza velocemente e abbastanza bene, perché proprio questa protesta mostra che il livello di sviluppo della società civile e di auto-organizzazione dei bielorussi è davvero alto. This very protest show that the level of civil society development and self-organization of... You're fired. Grazie a Roberta Fisani, che ci ricorda che il tempo è scaduto. Un saluto da Giampaolo Musumeci. Per le aziende professionisti, il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità.